L'Unione Europea in realtà ha espresso posizioni di varia natura, alcune di maggiore consapevolezza e apertura verso la necessità di realizzare dei programmi sia di aiuto, di reinsediamento e di ingresso protetto appunto dei rifugiati afghani, e posizioni di estrema e assoluta chiusura. L'ultima a cui lui faceva riferimento per la riunione del Consiglio d'Europa è, devo dire, sconcertante sul piano etico e sul piano giuridico, perché è la sostanziale negazione del diritto d'asilo, e che però è la negazione del diritto fondamentale su cui tra l'altro si fonda la stessa Unione Europea. Cioè siamo di fronte a una situazione che in qualche modo ha delle caratteristiche estreme e che mette in luce, diciamo, direi, la povertà politica nella quale ormai siamo immersi nell'Unione, in questo continente, cioè che rinnega se stesso o che non riesce però a trovare, non dico una sintesi buona, perché sappiamo che questo è estremamente difficile, ma ormai si abbandona, devo dire, anche a delle posizioni che sono in contrasto con la propria stessa identità. Siamo in un momento storico, devo dire, estremamente difficile, che credo che verrà, come dire, studiato come un momento per l'appunto di grande incapacità e grande anche ottusità, perché i problemi di cui stiamo parlando sono complessi, le ipotesi sono sicuramente diverse in campo, ma quello che la semplice chiusura aperta dal Consiglio l'altro giorno, speriamo non sia la parola definitiva, per l'appunto ci sono state molte reazioni avverse, diciamo, la parola fatta dal Consiglio è qualcosa, ripeto, di sconcertante e di anche contrastante, contrario agli interessi dell'Unione Europea, perché non basta dire chiudiamo la porta, e la realtà esiste anche quando tu chiudi la porta, e il non gestire le crisi significa poi doverle gestire a prezzo più alto. E proprio su questo volevo farle una domanda, perché insomma i due elementi critici emersi, cioè il rafforzamento delle frontiere esterne e l'assistenza ai rifugiati nei paesi limitrofi, sono una ricetta che l'Europa ha usato molto negli ultimi anni e che non sembra aver dato grandi risultati. Non ha dato nessun risultato, ha prodotto enormi disastri, perché noi abbiamo già seguito questo approccio, come lei giustamente dice, da parecchi anni, in particolar modo lo sciagurato accordo fra l'Unione Europea e la Turchia del 2016, che ha trasformato la Turchia nel paese con il maggior numero di rifugiati al mondo e nello stesso tempo però anche un paese in cui sappiamo, no, un governo autoritario che ha di fatto poi messo sotto scacco l'Europa proprio sul tema della gestione dei rifugiati. Ora continuiamo con i tentativi di scaricare le nostre responsabilità a paesi terzi, tra cui paesi anche estremamente poveri, non è il caso della Turchia, ma è il caso di altri, oppure comunque paesi che hanno già un carico pazzesco rispetto all'accoglienza. Adesso parliamo del Pakistan e dell'Iran, due paesi grandi e come dire anche con grandi capacità, diciamo, economiche, ma che hanno al momento con tutti e due insieme 2,8 milioni di rifugiati afghani e che aspettano appunto un ulteriore aumento. Non è questo il sistema internazionale dell'asilo, cioè questo è appunto abdicare alle proprie responsabilità, e queste persone comunque si sposteranno, solo che si sposteranno con enormi sofferenze umane, con aumento dei morti, e lo voglio dire perché poi su questo la retorica è molto forte, con una enorme poi capacità d'azione della criminalità organizzata, perché è evidente che laddove non ci sono canali di ingresso regolari ci sono altre offerte. Quindi quando si dice che si vuole combattere il traffico internazionale di esseri umani, noi stiamo facendo esattamente l'opposto, cioè lo stiamo alimentando a tal punto che siamo i principali attori del traffico internazionale di fatto. Lei è in un osservatorio particolare che insomma si affaccia su un punto terminale, diciamo, della rotta balcanica. Gli afghani hanno percorso quella rotta insomma da molto tempo. Sì, certo, perché tutta la penisola balcanica è oggi piena di rifugiati afghani che arrivano già da parecchio tempo, sono a loro volta bloccati. Segnalo che addirittura non l'Italia in questo momento, ma l'Italia nel passato lo ha fatto, ci sono in Croazia respingimenti sistematici verso la Bosnia di rifugiati afghani. Quindi noi, mentre affermiamo di voler difendere i diritti umani, di organizzare interventi, corridoi umanitari o comunque di fare appunto, affermiamo, poi dopo lo neghiamo, nello stesso tempo, quando andiamo a prendere, lo dico come paradosso, quando andiamo anche a prendere le persone altrove, poi le stesse persone quando si presentano alla frontiera dell'Unione Europea vengono respinte, come è il caso della Grecia con la Turchia, come è il caso della Croazia verso la Bosnia. È un coacervo incredibile di contraddizioni.